Lolita mía. Oh, Lolita mía. Tú sei mi amore. Tú sei mio tesoro. Vieni, vieni da me. Tesoro, vieni, vieni da me.